siate voi, perché a me non mi sembri caso, ecco. Mi hanno detto che sono in peggio, proprio per questo io non me la prendo. Mi hanno detto di fare il serio, ma guardi il mondo, ma ti sembri il caso. Fai a modo. Non mi sembrava il caso, se fossi stato bravo, in proporzione al naso, sarei già laureato. Tanto al giorno ci non basta aver la stessa faccia, ma serve buttar via la testa e buttarci giù in palestra. Per noi altri è meglio che passi quando un po' di pagliacci, ma voglio anche mi incazzi, e io lascio il